Gastronauta, l'Italia del cibo, di Davide Paolini. Buona domenica a tutti. Ebbene, ogni volta inizio dicendo gastronauti vicini e lontani, oggi devo dire solamente lontani perché qui ce ne sono tanti vicini nell'auditorium del Sole 24 Ore. Ebbene, perché? Perché sopra l'auditorium cosa c'è? C'è una cosa molto interessante, 47 produttori di panettone fanno assaggiare, vendono il panettone, quindi chi è ancora rimasto a casa può arrivare tranquillamente, fermata l'8 della metropolitana, troverete ogni ben di Dio. Ebbene, non potremo che oggi parlare di panettone con un gruppo di ospiti, ovviamente ospiti alcuni dei quali sono qui che stanno esponendo i loro panettoni, ma abbiamo sopra dei pasticceri, dei pizzaioli, dei panettieri e dei cuochi o degli chef. Quindi questo vuol dire che ormai il panettone ha trovato una linea continua, cioè ha trovato dei produttori che a un tempo forse erano inaspettati, soprattutto chi si aspettava che pizzaioli, ma poi vedremo anche perché producono panettoni. Comunque, chi volesse anche intervenire da casa, che non è qui presente, 800 24 00 24 e SMS 349 238 6666. Bene, io vorrei cominciare perché ho detto ci sono appunto quattro categorie professionali, però il panettone è uno, e per fare il panettone ci sono tanti modi, ma ce n'è uno che è univoco, che è quello del lievito. Ma ormai questo madre naturale, madre acida, lievo naturale, cioè sono tanti i termini con cui viene chiamato, e sono convinto che molti consumatori non sanno che cosa acquistano molte volte, nonostante ormai nelle panetterie la parola d'ordine sia c'è lievito naturale. E allora vediamo di discutere anche questo, perché io credo che appunto queste categorie professionali tutti usano più o meno le stesse cose. Allora io voglio chiedere a una nostra ospite, che è Francesca Morandin, che è una tecnologa alimentare, anche se discende da una famiglia che di panettone se ne intende. Qui abbiamo anche Rolando con noi, Rolando Morandin, che è stato maestro di tanti dei pasticceri che sono sopra. Allora voglio chiedere a Francesca, ci vuoi dare una definizione, ci vuoi portare chiarezza su questo fatto? Cioè, lievito naturale, cosa significa? Buongiorno a tutti. Allora, ahimè, oggi c'è ancora molta confusione, perché lievito naturale, possiamo classificare anche il lievito di birra, quello che siete abituati ad acquistare al supermercato. In realtà nel panettone bisogna fare una bella distinzione, perché troviamo il lievito di birra e la pasta madre, che può essere, ne possiamo trovare diverse tipologie, quindi a bagno in acqua, come abbiamo potuto vedere ieri, vedremo ancora nel pomeriggio, che è un sistema tipico piemontese, possiamo trovare il lievito madre legato nel sacco, che invece è un sistema tipicamente milanese, e poi possiamo trovare ancora un'altra tipologia, che è quello a bagno in olio, che era tipico, che è ancora tipico, non più così in maniera conclamata, nel sud Italia. E poi il lievito, come utilizza la maggior parte delle casalinghe a casa, chiuso nel vasetto, che si conserva in frigo. Quindi queste sono le tipologie di pasta madre le più conosciute. C'è da dire ovviamente che c'è una grossa differenza con il lievito di birra, perché il lievito di birra sono delle cellule di Saccharomyces cervicea selezionate in laboratorio e sono ovviamente pronte a lievitare, mentre la pasta madre è qualcosa di molto più complesso, in quanto si possono differenziare sia dei lieviti che dei batteri lattici. Bene, ora ti rubo la parola, perché hai nominato il sud, hai detto in olio, e allora da un po' di anni molti pasticceri del sud sono venuti alla ribalta. Abbiamo qua anche qui in prima fila Nicola Fiasconaro, che è una delle punte avanzate della pasticceria siciliana. Ma com'è un giovane basilisco, che è Vincenzo Tiri. Allora, tu sei, cioè, ultimamente appunto hai cominciato a proporre i tuoi panettoni anche con grande successo. Cos'è successo al sud? Come è arrivato il panettone? Al sud, insomma, il panettone si fa, come Nicola Fiasconaro è l'esempio diciamo nel mondo. Io ho iniziato a fare il panettone 10 anni fa, Sono inizialmente ho iniziato con Rolando Morandin, poi sono stato per molto tempo in giro per l'Italia a imparare tecniche nuove. E in pratica l'anno scorso ho messo a punto una nuova tecnica per fare questo panettone, riuscendo solamente con il lievito madre a fare tre lunghe lievitazioni per avere un prodotto, diciamo, diverso, più morbido, più fragrante. Questa è proprio, diciamo, una delle caratteristiche principali, perché il panettone si deve, io dico, si deve fare con il lievito madre, anche per questione di degli aromi che produce il lievito e di tutta la... è più digeribile un prodotto con lievito madre, si conserva di più, è più fragrante, gustoso, e noi abbiamo provato a fare... Bene. Con grande successo. Ma abbiamo la prima telefonata, Giovanni da Milano, buongiorno Giovanni. Buongiorno Paolini. Allora, io mi chiedo, cosa c'è di diverso nel panettone che io compro soltanto a 2,50 euro al supermercato rispetto a un panettone che dovrebbe essere di grande qualità, come viene descritto dai suoi interlocutori? Beh, se ci sono panettoni diversi, come ci sono oli diversi, ci sono oli da 2,99 fino a oli di 16 euro, ci sono un po' tutte le, diciamo, le merci hanno dei prezzi diversi, è evidente che la qualità non è la stessa, è evidente che i mezzi di produzione e i sistemi di produzione non sono gli stessi, probabilmente quel lievito madre è chimico o di birra oppure secco o di tante altre maniere, quindi mi sembra davvero evidente. Quel panettone che si compra per la festa di San Biagio, pago 2, compro 3, lo dice già la parola, pago 2, compro 3, come può essere un panettone di grande qualità? Tutto rispetto, però uno deve sapere che appunto se il panettone, ci sono panettoni che costano molto di più, quindi ci sarà anche una motivazione. Grazie a Giovanni da Milano, lì nella regia torneremo fra poco. Il Gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo a parlare di panettone, lo ricordo. Via Monterosa 91 troverete tantissimi panettoni, troverete anche dei laboratori e dei posti, anche dei luoghi per bambino, quindi vi aspettiamo, ma continuiamo. Abbiamo detto abbiamo sentito un produttore di panettoni che è un pasticcere, però ormai appunto altri lo fanno, ma sempre probabilmente lo hanno fatto. E tra questi c'è un panettiere molto noto a Roma, che è per Luigi Roscioli, che è qui con noi. E per Luigi ti chiedo, ma c'è differenza tra un panettiere e un pasticcere nella lavorazione del panettone, oppure sono le stesse cose, oppure è solamente così, magari un'abitudine, uno che lavora al pane rispetto a uno che lavora tutti i giorni paste? Come abbiamo già detto, il punto di forza di un panettone, a prescindere dalla qualità delle materie prime che ognuno chiaramente sceglie, è proprio il lievito naturale. Ecco, per il panettiere il panettone è un po' il banco di prova, perché fare il pane con il lievito naturale è una cosa diciamo abbastanza facile se uno trasla la lavorazione verso il panettone, mentre il panettone è una cosa che è più complessa. La facilità del panettiere è quella di avere un lievito naturale sempre in corsa, cioè per necessità produttive tiene il lievito naturale sempre vivo per tutto l'anno, perché chi come me produce il pane solo esclusivamente con lievito naturale, hai un lievito sempre molto disponibile, sempre pronto, di cui conosci già la risposta, mentre a volte per le pasticcerie, dove ci sono dei cicli produttivi che sono assecondati alle festività, Pasqua, Natale, per quelli che sono i grandi lievitati, c'è bisogno di un periodo di risveglio, comunque di assestamento, bisogna rivedere in diversi periodi dell'anno come il proprio lievito si comporta o reagisce. Ecco, invece per il panettiere è più facile, perché ce l'ha sempre in corsa, a quel punto mette alla prova, diciamo, la propria professionalità, da un elemento semplice tra virgolette come il pane a una lavorazione come quella del panettone, che comporta una doppia, una tripla lievitazione a seconda della scelta del professionista, ma anche l'apporto di zuccheri, grassi, proteine diverse che possono deviare il lavoro del lievito naturale. Bene, ricordo 800 24 00 24, chi volesse intervenire, e ci sono molti sms che sono intervenuti. Santo cielo, abbiamo toccato la tradizione. Oddio, me immaginavo, è una cosa che capita, mi capita regolarmente quando parlo di panettone tutto l'anno. Signori, nessuno vi porta via il panettone Natale, anzi forse sarà anche meglio, perché se si allenano questi signori tutto l'anno a fare il panettone, sicuramente a Natale sarà ancora migliore. Ma io dico sempre che la tradizione è un'innovazione riuscita. Sicuramente i panettoni che si mangiano oggi anche a Natale sono migliori di quelli che si mangiavano forse 30 anni fa o 20 anni fa. Ma abbiamo parlato di diverse categorie professionali. Ebbene, abbiamo anche uno chef il quale oggi ha presentato, io devo dire, un qualcosa di abbastanza rivoluzionario, perché vedere 12 panettoni di 12 colori diversi, dove non ci sono coloranti, insomma è una sorpresa. Ha presentato il pan e tone, cioè il pantone praticamente dei panettoni. Max Alaimo, buongiorno. Buongiorno a tutti, buona domenica. Come mai? Qual è l'idea di questo pantone dei panettoni? Ma tu sai che noi alle Calandre amiamo sperimentare e contaminarci, per cui abbiamo spostato la tua richiesta di presentare qualcosa di nuovo in anteprima qui in Radio 24, 12 gusti che simboleggiano un gusto al mese, ma è per risvegliare l'attenzione su quello che dovrebbe essere il nostro mestiere, per cui vedere con occhi nuovi qualcosa che è legato alle nostre consuetudini. Questo non squalifica assolutamente la preparazione rituale classica del panettone che noi continuiamo a fare, ma risveglia l'attenzione su quelle che sono dei concetti base, per cui ai bambini non vanno dati coloranti, bisogna dare ingredienti sani, e noi abbiamo cercato di sforzarci a lavorare su ingredienti che avessero una corrispondenza estetica e gustativa. Per cui dal panettone con lo zafferano e liquirizia e curcuma fresca, che è uno dei nostri classici, al pomodoro e origano e olive candite, al peperone con la fava di tonka, agli spinaci e menta e cioccolato, abbiamo trovato anche un sistema per far mangiare gli spinaci ai bambini, e al panettone senza tuorlo d'uovo, per cui bianco, con il riso alla mandorla. Insomma, è un gioco nel quale abbiamo portato delle ricerche attualmente in sperimentazione su altri ambiti gastronomici sul mondo dolce. Beh, io voglio rivolgere una domanda un po' provocatoria a Rolando Morandi. Qui tutti mi dicono: ma io ho imparato da Rolando, sono stato 10 anni fa da Rolando, un altro sono stato da Rolando, ma cosa c'ha lei di speciale, Rolando? Ma veramente, buongiorno a tutti tra l'altro, buona domenica, ma veramente non ho niente di speciale. Per fare questo lavoro ci va una cosa importantissima: la passione di fare il pasticcere o il cuoco o il panettiere, perché per me sono mestieri che bisogna che continuino le tradizioni di un tempo. Quello che diceva giustamente Aimo oggi, bisogna tornare ai sapori italiani che si stanno un po' perdendo, diciamo, nel corso di questo lavoro. Ok? E cioè bisogna tornare un pochino indietro, tornare alle cose genuine, alle cose saporite. Le lunghe fermentazioni sono importantissime nel pane e nei panettoni soprattutto, perché la flora batterica contenuta in un lievito madre predigerisce i prodotti complessi per noi, perciò le lunghe fermentazioni sono molto molto importanti. Beh, io volevo chiedere a Roscioli, per Luigi Roscioli, ieri mi ha raccontato, appena arrivato, a proposito del panettone d'estate, che molti hanno dubbi che possa funzionare o meno, mi ha raccontato una cosa che gli è capitata un paio di giorni fa nel suo negozio di Roma. Ce la vuoi raccontare, per Luigi? Come dicevo prima, avendo la possibilità di poter fare i panettoni tutto l'anno, perché, e tra l'altro in questo periodo dell'anno io rappresento un'area geografica un po' diversa, insomma, nel senso che Roma ha il suo clima, in questo periodo dell'anno io trovo che vengano meglio, perché non hai i problemi di dover cercare il luogo del laboratorio che ha una certa temperatura dove non ci sia un passaggio d'aria. Invece il laboratorio in questo periodo dell'anno è generalmente caldo e abbastanza umido, che è un inferno per le persone ma è un paradiso per il panettone. Comunque io mi rendo conto che ogni anno quando posso, io a agosto faccio comunque una prova di 50-100 panettoni per vedere, anche perché mia moglie è molto golosa, quindi quando può mi chiede sempre di farlo, e noto che la risposta del consumatore è sempre ottima. Io ero in produzione con i panettoni da portare qui, e ogni volta che scendevo in negozio per ricontarli, per vedere a che punto eravamo, ne mancava sempre qualcuno, e tutti dalla vendita mi dicevano: guarda che qui passa qualcuno e si prende un panettone, due panettoni, tre panettoni. Quindi devo dire che è un dolce che veramente a cui la gente è affezionata, anche sempre di più anche gli stranieri, perché in centro a Roma ne passano molti chiaramente, e vedo che ha un appeal molto forte, e che la gente, se lo trovasse tutto l'anno, sicuramente ne consumerebbe tutto l'anno. Bene, vedo che continuano ad arrivare panettone, solo a Natale, solo lì lo voglio. Va benissimo, caro radioascoltatore. Ricordo 800 24 00 24, sms 349 238 6666. E voglio tornare a Francesca, perché voglio chiedere a Francesca: ma è possibile fare un lievito naturale senza glutine, che oggi è un problema molto sentito, secondo me esageratamente sentito? Comunque c'è, come, anche se non nelle forme, nei numeri che ogni tanto vengono comunicati. Assolutamente sì, ahimè durante i miei studi sono riuscita a brevettare un lievito madre senza glutine a partire dal lievito madre di famiglia, quindi dal lievito madre di papà. Dico ahimè perché è stato brevettato, per cui non lo posso insegnare durante i corsi. Però ho pensato a un innesco molto più semplice, in quanto lavorare senza glutine non è così banale, e soprattutto ci sono dei panificatori, pasticceri, pizzaioli che lavorano in promiscuo, ovvero fanno delle produzioni anche con glutine, per cui ho pensato a un lievito, una pasta madre molto più facile da innescare, perché le miscele senza glutine sono composte principalmente da amidi, per cui i lieviti e i batteri lattici vanno a nozze, quindi fermentano molto più rapidamente, quindi assolutamente sì, si può creare un lievito madre senza glutine, e si può ottenere un panettone che ha il sapore di Natale, per cui anche per quelle persone che non possono mangiare glutine riescono ad assaporare un prodotto, soprattutto quindi dal punto di vista nutrizionale ottimo, etichette pulite, quindi senza additivi, monodigliceridi, degli acidi grassi, quindi additivi, conservanti, eccessivi idrocolloidi, quindi le sostanze che hanno la capacità di formare glutine. Quindi ricordatevi, etichette pulite il più possibile, direi assolutamente degli ottimi prodotti. Bene, vedo che continuano ad arrivare delle... non tutti vogliono mangiare il panettone a Natale, ce ne sono molti che ringraziano che c'è il panettone tutto l'anno, quindi diciamo c'è un'equivalenza. Però io voglio fare una prova: chi tra di voi è celiaco può alzare la mano? Bene, mi sembra che non ci sia qui problema di glutine, meno male. Linea alla regia, torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo. Bene, ho un sms molto simpatico, molto carino, perché dice: ma se mangiamo il panettone tutto l'anno non potremo più dire ma Renzi arriverà a mangiare il panettone. Bene, lo si dice di solito degli allenatori di calcio, è vero, abbiamo anche purtroppo smentito questo luogo comune, ahimè. Bene, abbiamo parlato prima con un pasticcere, abbiamo parlato con uno chef, abbiamo parlato con un panettiere, ora parliamo con un pizzaiolo. Sì, perché la grande sorpresa di questi ultimi anni è l'affacciarsi, diciamo, sulla scena del panettone di molti pizzaioli. E qui abbiamo uno di questi, abbiamo Renato Bosco, che è stato uno dei primi a scendere in campo. E allora, Renato, come mai un pizzaiolo scende in campo sul panettone ed è qui presente, quindi il suo panettone si può assaggiare, ma ce ne sono anche altri, c'è anche Giovannini di Pietrasanta, quindi ce ne sono tre o quattro, ora non tutti li ricordano, addirittura cinque. Come mai? Beh, buongiorno a tutti. Qui vicino a me ho Rolando Morandin, che oltre che essere un maestro del lievito madre, è un maestro di vita, e io l'ho incontrato anni fa in un corso, perché avevo deciso di cambiare un po' la marcia nella mia pizzeria, perché normalmente viene associata la pizza a un prodotto un poco digeribile o comunque un prodotto molto pesante, e ho detto perché non fare un corso con Rolando per capire meglio le scomposizioni, le lievitazioni e quant'altro, e lì nasce la mia passione per, e soprattutto per il panettone e per, diciamo così, il lievito madre. È stato un gioco abbastanza facile poi replicare anche sulla pizza, perché come sappiamo benissimo, quando uno riesce a realizzare un panettone, realizzare gli altri prodotti che sono molto più facili diventa molto, molto più semplice, ecco. E all'interno della mia pizzeria, che chiamarla pizzeria è diventato riduttivo perché faccio mille cose all'interno, e avere il panettone è una questione di prestigio, dove tu vedi questo pizzaiolo che destreggia il lievito madre, ma soprattutto gli ingredienti, con la consapevolezza di un pasticcere o comunque con la consapevolezza dello chef. Ecco, oggi ho visto, diciamo così, l'esposizione di Massimiliano, ho pensato ma cosa potrò fare mai poi dopo questo che ho visto oggi fare da Massimiliano. Vorrei fare i complimenti a lui, vorrei fare i complimenti anche a Rolando per quello che sta facendo, e ci chiedevamo ma quanti figli di pasta madre ci sono oggi qui a questa esposizione, ma quanti siamo che utilizziamo il lievito madre, quello diciamo vivo, quello che ogni giorno dobbiamo nutrire, quello che tutti i giorni dobbiamo portare avanti, perché purtroppo l'artigiano delle volte viene coinvolto in situazioni che sono quelle, i costi sono troppo elevati e bla bla bla bla, e si rifugia in tutti questi lieviti che non sono più lieviti madre vivi, ma che vengono riattivati dai saccharomiceti. Qui dovevo parlare forse Francesca, che è più brava di me, e dove i lieviti non attivi stanno avendo veramente un campo molto importante anche in questo, diciamo, in questo momento. Stai parlando di enzimi, mi sembra. Ma non solo enzimi, ci sono altre okay. cose che comunque mettono in moto. Bene, sentiamo Wanda dalla provincia di Lecce. Buongiorno Wanda. Buongiorno e complimenti. A me piacerebbe tanto che anche il panettone lo si potesse acquistare anche a Lecce e provincia. Però ecco, è un'iniziativa che lei dovrebbe estendere anche nel sud. Potremmo fare il cantapanettone, potremmo fare un giro il cantapanettone. Sì. Perché il panettone è un dolce molto calorico e non si addice ad un clima che è più caldo, insomma, da noi, no? Però abbinarlo con il gelato sarebbe buono. Sì, ma viene già abbinato col gelato. Guardi, vedo su in alto un produttore di grottaglie che è Lenti in Puglia. Poi abbiamo sentito Tiri che è in Basilicata, ma ce ne sono. C'era la Sicilia presente, quindi sono tante le regioni. Ormai al sud si produce e come il panettone. Ma vorrei tornare un secondo sugli ingredienti, perché c'è un signore che, con molta ironia, secondo me, dice, chiede che burro e zucchero usano questi geni del panettone pulito. Allora, volevo chiederlo a un genio del panettone pulito che è Max Eilheimer, tu che burro usi? Beh, se uso un burro, tendenzialmente uso un burro tedesco, ma normalmente il 99% della mia produzione è fatto con l'olio extravergine. E siamo nella zona del Belice, Biancolilla, Cerasuola e Nocellara. Questi sono poi i nostri ingredienti. E tu che? Beh, logicamente i burri sono di altissima qualità, selezionati, e sicuramente non sono burri italiani, non abbiamo questa nomea così importante. È vero che ci sono anche dei piccoli produttori che ultimamente stanno dicendo la loro, però diciamo che noi, io mi prendo dei burri non italiani, ecco. Volevo chiederlo a Morandin, il burro è importante nel panettone? Beh, il burro è soprattutto importante perché non deve contenere, diciamo, una flora lattica, perché va ad aumentare la flora lattica nel panettone e rischiamo di acidificare la massa. Mi è successo anche a me anni indietro. Di non riuscire a capire da dove era lo sbaglio, poi ho capito che era una concentrazione di una microflora nel burro, che in effetti fa bene, perché sono batteri lattici, è come ingerire dello yogurt, per carità, però nell'impasto purtroppo aumenta la carica lattica e mi va a acidificare l'impasto del panettone. Ecco, qui c'è un altro sms, devo dire curioso, però Mi sembra giusto leggerlo. Si può cambiare la forma del panettone adeguata all'estate per distinguerlo da quello invernale? Si può? Volendo si può. Si può. Ma io credo che non sia un problema, certo, di forma ma di sostanza. No. Esatto. Però abbiamo notato una cosa: quando io propongo il panettone estivo in forma plum cake, probabilmente è anche una quantità che è totalmente diversa dal chilo, e sono 400 grammi, è più facile di venderlo perché probabilmente ha un costo minore, ma anche la forma in questo caso gioca un ruolo importante. Bene, tu hai dici giustamente che è una questione di ingredienti, probabilmente. Assolutamente. Non di forma. Ma certo, tendenzialmente giocherei con ingredienti stagionali, con nature aromatiche molto più rinfrescanti, mentre l'inverno andrei frutta stagionale, sì, soprattutto. Ecco. Bravissima. Francesca, come mai ha questa forma il panettone? Ma allora, direi che possiamo classificarli in due forme diverse. Una è quella tipica milanese, quindi il panettone alto, che è stato inventato tantissimi anni fa dal signor Motta, perché aveva la necessità di spedirlo all'estero, e quindi aveva appunto la forma classica che siete abituati a vedere, quindi pirottino alto. Mentre a Torino si differenzia in quanto si chiama galup, perché la forma del pirottino è bassa e quindi abbiamo e sopra soprattutto viene differenziato per la glassatura con le nocciole, tipica appunto piemontese. Quindi queste sono le due grandi differenze del panettone. Veramente il panettone è nato basso perché anticamente è nato in panetteria, evidente, forniamo, perché ci sono molte leggende su questo, ma comunque è nato in panetteria ed è nato basso. Si faceva la croce e si fa ancora la croce sul panettone, è un simbolo religioso, un ringraziamento verso Dio, via, perché in effetti il lievito madre è natura e Dio è natura, né più né meno. Viene dall'aria, viene dal terreno, viene da, non so come dire. Ma tant'è vero che oggi alle 15 voi fate un intervento che originariamente era dalla stalla fino al panettone, per parlare appunto di come nasce il lievito. Quindi chi fosse interessato, oggi alle 15 ci sarà questo intervento. Stavo leggendo un'altra interessante SMS che dice: sento dire che i pasticceri non usino lievito madre per un problema di costi, mi sembrano balle. Si faccia dire, ci dica dai suoi esperti quanto costa il lievito madre in più del lievito chimico. Posso parlare? Sì, io? Sì, oh, certo. Benissimo. Allora, il lievito madre è acqua e farina, stop. I lieviti iofilizzati, che le chiamano con tanti nomi, è un lievito madre in effetti iofilizzato. In questa lavorazione, io non sono all'altezza di spiegarlo, una grossa parte di flora batterica muore, deve essere per forza innescato con del lievito di birra per fare lievitare il panettone, via, diciamo. È una storia un po' così, parlarne veloce e ci vuole un pochino più di tempo per poterlo. Il problema di costi è essenzialmente legato alla lavorazione, certo, ma soprattutto quei costi di quei lieviti lì sono molto più costosi, perché noi parliamo di acqua e farina e basta. Bene. Ok? Mentre là purtroppo ci deve essere una lavorazione molto più lunga, la iofilizzazione, per iofilizzare un prodotto deve essere congelato, poi iofilizzato, cioè è una cosa più lunga ed ecco che i costi sono molto più elevati. Ecco, arrivano due diversi SMS da Genova che dice: vi siete dimenticati del pan dolce? No, il pan dolce come? Il pan dolce è di Genova praticamente, cioè due modi per fare il pan dolce. Uno tipo pasta frolla, molto ricco di frutta, di pinoli, di questi prodotti. L'altro è un lievitato molto pesante, perché anche lì è molto ricco di frutta secca, con pinoli, uvetta, cedro, arancio, c'è chi mette delle noci. Comunque a me piace tantissimo, per esempio, il pan di Genova. E comunque, mentre il panettone veniva a fare la croce, il pan di Genova si fa il triangolo, che è un simbolo anche lui religioso, la Santissima Trinità. Quindi tutte e due hanno questa simbologia, ma voglio, certo, voglio chiedere a tutti, da destra verso sinistra, quanto ci vuole, quante ore ci vogliono per fare un panettone come Dio comanda, col lievito naturale, con una lievitazione diciamo abbastanza lunga, ecco, quanto ci vuole? Tanti giorni, tantissime ore, moltissime ore si utilizzano appunto per preparare il lievito, la pasta madre, poi per essere utilizzata nell'impasto serale. Si fa un primo impasto che deve triplicare, per cui ovviamente passano tantissime ore, e poi un secondo impasto. Questo impasto poi viene ulteriormente lavorato, poi c'è un'altra fase di lievitazione all'interno del pirottino e poi la cottura e raffreddamento, per cui un panettone fatto a regola d'arte siamo intorno alle 72 ore, quindi due giorni e mezzo, tre giorni di lavorazione. 48 ore, diciamo. E quindi è qui sostanzialmente che i costi aumentano, è la differenza da un prodotto industriale a un prodotto artigianale, ecco, sempre considerando gli ingredienti. Quindi... 800240024, ecco, prima ho parlato di panettoni del sud, ho citato alcuni produttori, ma vedo, non avevo visto, c'è anche la rappresentanza della Campania, perché c'è Anna Chiavazzo qua sulla destra, quindi credo che il sud sia tutto rappresentato, quindi voglio tranquillizzare il radioascoltatore che prima ha mandato un sms: al sud si trovano ormai i panettoni in comune. Sentiamo Roberto dalla provincia di Viterbo, buongiorno Roberto. Buongiorno, un piccolo aneddoto, anche se non serve fare pubblicità. Anni fa per caso mi trovo a passare a Castelbuono durante la saga del patrono, la festa del patrono, e capitiamo in piazza Castelbuono, un comune in provincia di Palermo, e ci imbattiamo nel signor Ciasconaro e i suoi collaboratori, che ci offrono un panettone al pistacchio in piena estate, strepitoso. E la gran parte della produzione non finisce in Italia ma finisce in Canada, per cui l'importanza del panettone non è soltanto a Natale, tanto per dire un piccolo esempio, tutto qua. Beh, io devo rispondere anche a quelli che parlano tradizione, vorrei ricordare che da 30 anni in un paese in provincia di Rieti che si chiama Barona c'è la sagra del panettone il 15 d'agosto, quindi credo che siano ormai tantissimi anni che si mangia il panettone d'estate. Poi non ho mai capito perché, quale correlazione o relazione c'è tra il panettone e il Natale, non lo so, è una tradizione. C'è stato un famoso libro di uno storico inglese che anni fa ha scritto un libro sulla tradizione inventata, e credo che anche questa sia stata una tradizione inventata, perché dal fatto religioso forse c'è la croce probabilmente, ma non credo quello che giustifica il panettone a Natale. Simbolo della ricchezza. Ah, ecco, bene, esatto. Bene. Allora, lì è come le lenticchie che si devono mangiare l'ultimo dell'anno. Allora, lì nella regia torneremo fra poco, rimanete con noi. Il gastronauta, l'Italia del cibo. Eccoci di nuovo, arriviamo all'ultimo stacco. Bene, rispondo io a un sms che dice: il burro è tutto straniero e congelato, zucchero raffinato. Bene, che il burro sia tutto straniero, questo è vero, perché è un burro che è quasi tutto francese o tedesco. In Italia dicono i pasticceri che non c'è un burro di livello, ma si parla di congelato. Cosa dici? Cosa mi dici? Francamente mi sorprendo, non ho mai acquistato un burro congelato. No, assolutamente. Tu hai mai assaggiato? No. Perché penso non costi molto di più, è un prodotto che si conserva di per sé, voglio dire. Questa per me è una novità, in tanti anni insomma. Bene. C'è sempre qualcosa da imparare. Parla di zucchero raffinato, ecco, cosa si usa nel panettone come zucchero? Beh, allora si usa lo zucchero saccaroso che siete abituati a consumare quotidianamente. Oggi va molto di moda lo zucchero di canna, in realtà non c'è una grossa differenza, perché anche lo zucchero di canna, ahimè, viene raffinato, per cui zucchero saccarosio... Di fatto questa sarebbe la vera frontiera da superare. Esatto. Noi siamo concentrati in questo tipo di ricerca, riuscire a eliminare lo zucchero di canna o barbabietola raffinato sarebbe un grande successo, ma anche sostituendolo con altri ingredienti di origine naturale. Non è facile. Assolutamente non è facile. No. Non è facile, stiamo provando, bene, anche noi, è bene dirlo che magari... Sì. Ma vedo un altro SMS che dice: al discount panettone a 2 euro, buona fortuna care, made in Romania addirittura, mi dice Riccardo da Roma, un romano che scrive addirittura ha trovato un panettone made in Romania. Volevo ricordare comunque che il più grande produttore al mondo di panettoni, questi che parlano sempre di tradizione, non è in Italia, no, ma in Brasile, certo. Produce tutta la produzione di tutti i panettoni che ci sono in Italia in un unico produttore, e presto arriverà in Italia. Ma in effetti, posso intervenire? In effetti, ero a un corso a Rimini e c'erano tre persone, due mulatte e un bianco. Alle una si presentano, e lui ha lavorato alle Tre Marie e alla Bauli, poi l'ha chiamato questo datore di lavoro in Brasile, è il più grosso produttore di panettoni al mondo. Ma non solo, devo dire che, bisogna anche dirlo, è di origine, di generazione torinese. Quindi questo significa qualcosa, ma non solo, voglio ricordare ancora una cosa che ormai credo l'ho ricordato a Iosa, chi mi conosce, che l'idea che io ho avuto un po' di anni fa sul discorso del panettone d'estate è stata perché in Canton Ticino mi hanno raccontato che i 90 pasticceri ticinesi, che hanno un disciplinare di produzione, tra l'altro, molto ferreo, producevano panettone tutto l'anno, in barba agli italiani, lo dicevano loro, che non avevano panettone, i turisti che rientravano e passavano dal Canton Ticino si compravano il panettone. Perché? Perché non lo trovavano in Italia. Paola dalla provincia di Belluno, buongiorno. Buongiorno. Io volevo esprimere il mio giudizio riguardo al burro, perché hanno dato un giudizio dicendo che il burro italiano non è buono, non è di qualità. Io non sono d'accordo. Bene. Perché noi l'estate andiamo nelle Malga, andiamo nel Trentino, nella Val Giudicaria, abbiamo una casa e stiamo lì, e lì troviamo un burro superiore di grandissima qualità e anche buono al gusto a mangiarlo. Bene, signora, lei lo usa in casa. Pensi uno che fa 1000-2000 panettoni, però c'era, volevi intervenire? Il burro è un elemento fondamentale nel panettone. Nella nostra tradizione gastronomica, quella italiana, l'elemento principale invece è l'olio extravergine d'oliva. Quindi l'impostazione, diciamo, l'approccio produttivo italiano rispetto al burro, poi lei chiaramente sta parlando di una nicchia molto piccola, però l'approccio produttivo del italiano verso il burro è quello di avere un burro che verte più verso la cucina, diciamo, un burro leggermente più sporco, mentre nel modo buono. Mentre nel nord Europa, Francia, Germania, Belgio, Inghilterra, il burro è un elemento molto più importante nell'ambito gastronomico, e quindi viene trattato, prodotto, inserito nella linea produttiva in un altro momento, rispettato molto di più. È per questo che immagino che molti dei nostri colleghi si trovino meglio con burri esteri. Diciamo, cucinare con un burro italiano è una cosa, farci pasticceria può dare diverse risposte. Ma voglio chiedere a Massimiliano, sei stato uno dei primi a usare l'olio d'oliva extravergine in funzione del burro nel panettone. Ecco, qual è stato poi l'impatto sul pubblico? Ma in realtà noi facciamo comunque anche produzione col burro. In linea di massima la produzione all'olio è nettamente superiore e coincide un po' con la nostra filosofia, che è legata alla leggerezza, all'italianità, ai sapori che vengono in qualche maniera riportati in luce attraverso un grasso che li veicola in maniera molto più amplificata. Perché l'olio extravergine di oliva unito all'acqua è un veicolo di profumi aromatici meraviglioso rispetto a un grasso animale che tende a chiudere un po' il profilo aromatico. Beh, volevo rispondere a un altro SMS che dice appunto che il panettone d'agosto lo voglio solo io. Devo dire che ormai lo vogliono un esercito di pasticceri, sì. E se si va a chiedere il giro d'affari che negli ultimi anni fanno durante il periodo estivo, certamente non è quello di Natale, però molti sostengono che mentre prima facevano 0 lire, oggi il loro ricavo è molto più alto, al punto che se si chiede a produttori di farine o produttori di canditi, vi dicono appunto che il giro d'affari è cresciuto notevolmente. Caro radioascoltatore, se ti va bene così, se non ti va bene non posso farci niente, mangia un panettone il giorno di Ferragosto. Pierluigi da Genova, radioascoltatore. Pronto? Buongiorno. Prego, prego. Buongiorno a tutti, complimenti per lei. Vi seguo sempre, Radio 24 fissa. Senta un po', seguivo questa trasmissione per il panettone che si ci fa il taglio atroce prima di metterlo in forno. Sì. E diceva che è una simbologia, diciamo, religiosa, dettata da una simbologia religiosa, perché si fa Natale, che si fa la croce e cose così. Ma io penso che più che altro sia un'esigenza diversa, anche perché un panettone quando si mette nel forno e si gonfia che cuoce, se non avesse questa incisione sulla crosta e quindi si apre in modo tipo come un fiore, come una rosa, si accenderebbe e quindi si spaccherebbe tutto intorno. Bene, quindi facciamo rispondere, guardi, facciamo subito rispondere. Allora, effettivamente la croce non è nata sul panettone, è nato sul pane antico, che tutti i pani antichi, compresi soprattutto nell'arco alpino, veniva fatta la croce. Ecco perché la croce poi Motta la riportò sul panettone, ok? Proprio per dare uno sviluppo maggiore a quello che era il panettone. Ma in effetti la croce è nato sul pane e non sul panettone. Bene, grazie. Io voglio ricordare un'ultima cosa che qua vediamo, perché oggi ci sono stati tantissimi SMS. Sì, volevo ricordare, stiamo diciamo arrivando quasi in fondo, che durante agosto quest'anno sono annunciate tantissime iniziative, ce ne sarà una anche all'Expo, quindi ce ne saranno tantissime, che vuol dire che ormai il panettone è diventato molto popolare d'estate, quindi all'Expo poi ci saranno in molte spiagge italiane, quindi continua, saranno tutte diciamo manifestazioni autonome che i singoli produttori stanno facendo, più produttori assieme, e che quest'anno vedrete, ma già dagli anni passati succedeva di poter mangiare il panettone sotto l'ombrellone con il gelato. Volevo ricordare a proposito di tradizioni che c'è una tradizione invernale anche a Mantova. A Mantova si usa mangiare durante il giorno di Ferragosto il panino con il cotechino, quindi più invernale di questo, e in Brianza si usa mangiare la cassola. Quindi io devo dire che insomma vuol dire che la tradizione è proprio un'innovazione riuscita. A questo punto non mi rimane che salutarvi e invitare tutti quelli, i gastronauti lontani, a venire ancora oggi fino alle 20 in via Monterosa 91, dove troverete tantissimi panettoni da assaggiare, tantissimi bravi pasticceri, panettieri, pizzaioli e chef che vi offriranno il loro panettone. Vi auguro una bellissima domenica e di chiudere ovviamente stasera e domani mattina con il panettone, dopo la cena e durante la colazione. Buona giornata a tutti.